Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Di share per la serata di Santoro, Berlusconi, l'Agicom dovrebbe sanzionarlo. Il New York Times rilancia le accuse al Papa, sapeva anche di un prete pedofilo tedesco. L'assemblea degli azionisti Fiat, Marchionne, nessuno dica che viviamo alle spalle dello Stato, ma la chiusura di Termini è un passo obbligato. Domani la giornata internazionale del teatro, il direttore del Piccolo Sergio Escobar, Radio 24, la politica ridia dignità allo spettacolo. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Oltre il 13% di share per la serata organizzata da Michele Santoro al Paladozza di Bologna contro la par condicio, la fonte è l'Auditel. Fonti RAI invece parlano di ben altri dati. La serata sarebbe stata seguita da 450.000 telespettatori, pare al 2% di share su Sky, e su Current TV da 540.000 telespettatori, pare al 2,4% di share. Su Rai News 24, che trasmetteva l'evento in differita in seconda serata, vederlo sarebbero stati in 245.000, pari all'1,6% di share. E la serata organizzata da Santoro è stata questa mattina al centro dei commenti negli opposti schieramenti, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, prima del voto di domenica. Cominciamo a collegarci con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Una reazione dura quella della maggioranza. A parlare a notte fonda è lo stesso Berlusconi che definisce le trasmissioni di Santoro inaccettabili, un obbrobrio incivile e barbaro che mette sotto accusa qualcuno accusato di tutto e di più senza la possibilità di difendersi. Da qui la richiesta del Premier all'autorità per le comunicazioni affinché sanzioni il conduttore di Anno Zero. Dal Popolo della Libertà il portavoce Capezzone parla di flop di Santoro in termini di ascolti e comunque la trasmissione di ieri sera, commenta il capogruppo Gasparri, è stata la prova di una militanza politica. Faziosa. Tornando all'ultimo giorno di campagna elettorale, Berlusconi sarà nel pomeriggio qui a Roma a fianco della Polverini. Obiettivo: convincere gli indecisi. Secondo il Cavaliere, nel Lazio come nelle altre regioni il voto sarà una scelta di campo. Ascoltiamo su questo sempre dal PDL Cicchitto. Il nostro è un appello in primo luogo contro l'assenteismo, in secondo luogo perché i cittadini si rechino a votare contro il disastro combinato da tutti i punti di vista dalla giunta Marrazzo, e in terzo luogo perché votino per la Polverini e per la lista civica della medesima. Infine la polemica relativa all'invito di Berlusconi a non votare l'UDC, il Premier oggi rincara la dose e definisce sciagurata la scelta di Casini di appoggiare in alcune regioni la sinistra. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, ultimi commenti anche per l'opposizione, ci colleghiamo dunque con Andrea Viali. Ha iniziato il suo ultimo giorno di campagna elettorale alle 5 di mattina davanti ai cancelli di Mirafiori. Pierluigi Bersani, assieme ai lavoratori della Fiat preoccupati per il loro futuro, il segretario democratico ha ribadito che il tema del lavoro deve tornare al centro della discussione politica, che invece resta incentrata sui problemi di Berlusconi. Ma sentiamo le sue parole. C'è chi ne ha parlato e c'è chi non ne ha parlato. Ecco, io credo che chi non ne ha parlato è perché non ha voglia di pagardarsi, ha voglia di buttarla sul confronto ideologico, il bene, il male, Berlusconi sì, Berlusconi no. Perché sa bene che in realtà i miracoli che ha promesso non sono venuti, i cieli non è che siano così azzurri, e quello che si è fatto fin qui la gente ha percepito che non basta. Bersani ha detto poi che dalle regionali si aspetta un'inversione di tendenza per il PD dopo le sconfitte nelle ultime tornate elettorali, e ha parlato anche del caso Santoro. La trasmissione di ieri sera ha detto: dimostra che la censura nei tempi moderni è inutile, è un'assurdità e può perfino essere un boomerang. Da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Il lavoro rimane il primo obiettivo e l'attenzione straordinaria continuerà fino a quando sarà necessario, lo ha assicurato il ministro del lavoro Maurizio Sacconi parlando ai microfoni questa mattina di Radio 24. Un minuto dopo la formazione delle nuove giunte regionali io riconvocherò quel tavolo Stato, Regioni, Parti Sociali che nei giorni scorsi ha realizzato un importante unanime accordo su nuove linee guida per la formazione, perché abbiamo bisogno di formazione che formi, non di formazione che faccia la festa dei formatori come spesso è accaduto. Quindi se la cifra fondamentale della nostra politica del lavoro sarà l'investimento nelle competenze e ovviamente lo sviluppo di servizi che nei territori regionali accompagnino quanto più le persone a nuovi lavori, a partire anche dal monitoraggio dei fabbisogni professionali, dei lavori che vengono cercati e spesso non trovati. Per il segretario della CISL Raffaele Bonanni, siamo lontani dall'uscita dalla crisi, sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Chiederemo il giorno successivo alla chiusura della campagna elettorale di aprire una discussione tra regioni e governo centrale per trovare linee comuni per utilizzare meglio la spesa già in corso e per investire altri soldi e per soprattutto fare quell'opera di giustizia sociale ma anche di sostegno all'economia che è la riforma delle tasse. Se i consumi languono è perché i lavoratori e pensionati sono schiacciati dalle tasse e se i consumi languono, ma è chiaro che le nostre aziende chiuderanno e i posti di lavoro diminuiranno, quindi ci vuole uno sforzo straordinario che non vedo. Assieme alla Fiat questa mattina all'Ingotto, torniamo dunque a collegarci con Torino e con Andrea Malan. Buongiorno a tutti, un minuto di applausi da parte dei soci Fiat per Sergio Marchionne che per un'ora ha, oltre dopo aver raccontato l'andamento del 2009, soprattutto si è battuto contro quello che ha definito un tiro al bersaglio contro la Fiat e ha ribadito le posizioni dell'azienda sulla durezza della crisi, su come sia necessario reagire e sulla giustezza delle sue posizioni, per esempio per quanto riguarda la chiusura dei Termini Imerese. Ha detto: ho l'impressione che politici e sindacati non si rendano conto della dimensione della crisi, e ha rivendicato che mentre sui concorrenti europei piovevano miliardi nel pieno della crisi, la Fiat non ha chiesto assolutamente nulla. Però ha ribadito ancora una volta: la chiusura dei Termini è inevitabile, lo stabilimento è antieconomico e per trasportare la produzione della Panda a Pomigliano, che assicurerebbe il futuro dello stabilimento campano, ci vuole dai sindacati una prova di flessibilità e l'accettazione appunto delle condizioni necessarie a produrre in maniera economica. Altrimenti, ha detto, alla Fiat non converrebbe trasportare appunto la Panda e converrebbe lasciarla in Polonia. Grazie ad Andrea Malan. Dunque, appuntamento con lui sarà oggi pomeriggio anche in Focus Economia. E in un messaggio, cambiamo decisamente argomento, in un messaggio inviato al Papa, i vescovi di Francia esprimono vergogna e rimorso, così si legge nel messaggio, davanti agli abominevoli atti di pedofilia in seno alla Chiesa Cattolica. Intanto arrivano nuove accuse da parte del New York Times al Papa. Questa volta il caso è quello del sacerdote tedesco Hullermann, riconosciuto colpevole di abusi sui minori e poi reintegrato nel lavoro pastorale mentre era ancora in terapia psichiatrica negli anni in cui Ratzinger era arcivescovo di Monaco. La vicenda era già venuta alla luce qualche settimana fa. L'arcidiocesi di Monaco aveva rilasciato una dichiarazione dell'allora vice di Ratzinger, Gerhard Gruber, che si era assunto tutta la responsabilità per il mancato intervento a carico del prete pedofilo. Il New York Times però oggi torna a parlare di questo caso, fornendo una versione diversa e sostenendo l'esistenza di una memoria informativa consegnata al futuro Papa in cui lo si metteva al corrente del reintegro di Hullermann. Il documento, la cui esistenza, scrive il giornale, è confermata da due fonti ecclesiastiche, dimostra che non solo Ratzinger presiedette un incontro il 15 gennaio dell'80 in cui fu approvato il trasferimento del prete, ma fu anche informato della ridislocazione del sacerdote. Quale ruolo l'attuale Papa, conclude comunque il giornale, abbia avuto nel prendere la decisione e quanto interesse abbia mostrato nel caso del sacerdote che aveva molestato numerosi ragazzini nel suo precedente incarico, non è chiaro. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ancora rilievi della scientifica nel sottotetto della Basilica Santissima Trinità, dove è stato trovato dopo 17 anni il corpo di Elisa Claps. Il vice parroco della Santissima Trinità di Potenza sapeva dallo scorso gennaio di un cadavere nascosto nel sottotetto e non lo disse. Ad informare Don Vagno furono le donne delle pulizie. Una delle due ieri ha però negato, l'altra avrebbe messo a verbale la circostanza. Sono madre e figlia. È un nuovo tassello traballante che si pone in una storia, quella dell'uccisione a Potenza 17 anni fa di una ragazzina di 16 anni, Elisa Claps. Elisa dice all'amica Eliana De Cillis che va ad un appuntamento nella Basilica di Santissima Trinità con Danilo Restivo. Da quel giorno Elisa scompare. L'amica Eliana ritratta la prima deposizione per paura, diranno i magistrati della Procura di Salerno. Abbiamo provato a parlare con Eliana, ma è stato impossibile. Dell'uccisione di Elisa Claps ha parlato anche il capo della polizia, Antonio Manganelli, a margine di una conferenza stampa ieri al Viminale. Credo, ha detto Manganelli, che avremo prossimamente novità su questo caso. Domani mattina la polizia scientifica tornerà nel sottotetto della chiesa per cercare ulteriori elementi che possano aiutare le indagini per l'omicidio di Lisa Claps. Gli accertamenti dovranno dire anche se il delitto sia stato la conseguenza di un tentativo di abuso o di violenza sessuale. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Tiriamo un po' il fiato. Con quasi 900 artisti, più della metà italiani e 141 gallerie, si è aperta a Milano la 15ª edizione di MiArt, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea. MiArt prosegue il suo percorso alla ricerca della qualità, forte del ruolo di Milano quale capitale del mercato italiano dell'arte. Come spiega uno dei curatori, Giacinto Di Pietrantonio, al microfono di Adriana Fracchia. Milano è sempre stata una città del mercato dell'arte italiana e anche una delle più forti in Europa, perché qui passa il 70% delle compravendite dell'arte in Italia, anche perché negli ultimi mesi sembra che la crisi stia per passare, che ci sia un risveglio. La crisi ha portato una sorta di pulizia sul piano delle opere, nel senso che mentre prima il collezionista comprava bulimicamente, adesso il collezionista si è fatto molto più esigente, quindi non è disposto più a comprare così a cuor leggero, e allora si è visto un innalzamento della qualità. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della serata di Santoro organizzata ieri sera a Bologna, che avrebbe registrato il 13% di share secondo l'Auditel, ma la RAI dubita di questi dati. L'ira di Berlusconi, l'Agicom dovrebbe sanzionarlo. E poi il New York Times, che rilancia le sue accuse al Papa, avrebbe saputo Ratzinger anche di un prete pedofilo tedesco. Ci siamo poi trasferiti a Torino per l'assemblea degli azionisti Fiat. Marchionne ha detto: nessuno dica che viviamo alle spalle dello Stato, ma la chiusura di Termini è un passo obbligato. E riprendiamo questa seconda parte di GR24 parlando di teatro. Ad Enna riapre dopo 10 anni il Teatro Garibaldi. A Piacenza il Comune apre il Teatro Comunale con un concerto gratuito della Filarmonica Toscanini. A Catania il Bellini offre una visita guidata ai segreti del teatro. A Roma biglietti scontati. Saranno davvero tantissime domani le iniziative per la Giornata Mondiale del Teatro. Una giornata per festeggiare il teatro e per riflettere, come dice il direttore del Piccolo di Milano, Sergio Escobar, al microfono di Marta Cagnola. Credo che non ci sia affatto contraddizione tra in qualche modo festeggiare la giornata mondiale del teatro e riflettere su ciò che rende il teatro, la vita del teatro, non dico meno facile, perché facile non è mai stata e non ha detto che debba essere, ma con meno riconoscimenti della dignità che il teatro ha. È una giornata mondiale. Il Piccolo ha rapporti con tutto il mondo e quindi siamo facilitati nel vedere cosa succede, ma anche altri ce l'hanno, anche il pubblico che si sposta sempre di più. E non una comparazione, ma un ragionamento, soprattutto sul perché altre nazioni, vedi la Francia, vedi la Germania, investono di più sul teatro, è importante per capire quali sono le ragioni profonde per cui in Italia questa cosa non scatta. E io lo dico subito proprio alla incapacità di riconoscere la dignità e la funzione del teatro. I governi di centrodestra e di centrosinistra, con piccole sfumature, non hanno avuto, da 25 anni qua, non hanno avuto atteggiamenti molto diversi. Ma non avremo mai una risposta a queste continue pressioni che dobbiamo fare se non sarà riconosciuta la dignità del teatro e il fatto che abbiamo bisogno di teatro più adesso che non nel dopoguerra. E sabato al Piccolo cosa succederà? Noi aderiamo a questa cosa, è come tutti i teatri, quindi abbiamo degli scontri, ma abbiamo pensato di fare qualcosa in più e qualcosa che sia legato alla vita del nostro teatro. Intanto per noi sarà un ulteriore modo di far conoscere il chiostro restaurato di Via Rovello. Quello è teatro. Il rapporto fra una città e un teatro passa anche attraverso queste cose, il recupero di spazi che erano dimenticati, che non facevano più parte, non dico dell'economia, ma della vita di una città, e riuscire a renderli vivi. E ci sembra il modo migliore di festeggiare la giornata mondiale del teatro. 6 mesi di sospensione dall'ordine dei giornalisti della Lombardia per il direttore del giornale Vittorio Feltri. Feltri era finito sotto procedimento disciplinare per gli articoli sul caso Boff, per le accuse a Gianfranco Fini riportate sul suo giornale e per aver consentito a Renato Farina di continuare a firmare articoli dopo la sua radiazione dall'Albo. Feltri si è detto dispiaciuto per aver appreso la notizia solo da un articolo di Repubblica. Ed ora Bari per le vicende giudiziarie dell'ex vicepresidente della Regione Puglia, Frisullo. Sandro Frisullo resta in carcere. Lo ha deciso questa mattina il GIP del Tribunale di Bari, Sergio Di Paola, che ha condiviso la tesi della Procura. Respinta l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa dell'ex numero 2 della Giunta Vendola. Il quadro indiziario, le esigenze cautelari, ha ritenuto il GIP, non appaiono modificate. Frisullo in carcere dal 18 marzo con l'accusa di associazione per delinquere e turbativa d'asta e indagato anche per corruzione. L'ex vicepresidente della Regione Puglia avrebbe agevolato le imprese riconducibili all'imprenditore barese Gian Paolo Tarantini nell'aggiudicazione di appalti e forniture da parte dell'ASL di Lecce. In cambio l'esponente PD avrebbe ricevuto soldi e regali. Le dichiarazioni di Frisullo, interrogato lunedì scorso, non hanno convinto gli inquirenti e il GIP. La difesa aveva anche puntato sulle precarie condizioni di salute di Frisullo. Per il GIP invece il diabete di cui soffre non è incompatibile con il carcere. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. È stato sospeso il divieto di dimora in Campania a Sandra Lonardo Mastella per consentirle di esercitare il diritto di voto. Lonardo sarà quindi stasera a Benevento per partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale dell'Udeur. Lonardo è candidata per l'Udeur a Napoli e Benevento, è sotto inchiesta nell'indagine su presunte irregolarità nella gestione ARPAC. Da ieri sera coprifuoco in via Padova dopo i disordini di qualche tempo fa. Centri massaggi chiusi entro le 20, phone center 2 ore dopo, bar, takeaway e ristoranti non più tardi della mezzanotte. Questo è il contenuto delle ordinanze volute dal Comune di Milano per la zona di via Padova ed entrate in vigore la scorsa notte tra le polemiche. Se per il sindaco Moratti si tratta di provvedimenti ragionevoli che porteranno ad un ritorno alla normalità nella zona, molti vi hanno visto una limitazione della libertà individuale e di commercio. Fra questi, i proprietari del pub Ligera, che hanno messo in atto una colorata protesta, restando aperti ben oltre la mezzanotte e servendo ai tavoli, in pigiama, improbabili cocktail a base di camomilla. Abbiamo brindato alla ufficiale entrata nell'illegalità, e abbiamo invitato la nostra clientela ad andare a dormire, siamo stati accolti da una salva di fischi. Temiamo che ci possa essere un verbale da parte dell'autorità cittadina e che soprattutto questo provvedimento possa essere considerato come un qualche cosa di sano e quindi da estendere anche ad altre aree della città. Nel quartiere comunque non sembrano essersi verificati particolari incidenti, forse anche a causa del grande dispiegamento di forze dell'ordine. Non resta che aspettare per la giornata di oggi il bilancio delle operazioni e il numero delle contravvenzioni elevate. Fabio Pisano, GR24, Il Sole 24 Ore, Milano. Nel nostro sondaggio di oggi prendevamo spunto dalla vicenda recente di Montecchio in provincia di Vicenza, dove alcuni bambini sono restati senza un vero e proprio pranzo nelle mense della scuola perché i loro genitori non avevano pagato la retta. Non è il primo caso in Italia e vi chiedevamo oggi se secondo voi se è giusto comportarsi così nei confronti dei bambini per convincere i genitori a pagare. Ebbene, il 72% di voi ha risposto di sì. E noi ci trasferiamo in Gran Bretagna perché presto anche Times e Sunday Times online saranno a pagamento. Aveva promesso che i quotidiani online del suo gruppo si sarebbero letti a pagamento e c'era da giurarci che questa promessa a Rupert Murdoch l'avrebbe mantenuta. Per la prima volta chiederemo ai lettori di pagare un prezzo che per noi è ragionevole, 2 sterline alla settimana o 1 al giorno, per leggere le edizioni online di Times e Sunday Times, dice James Harding, direttore della testata britannica, che da giugno va a pagamento anche sul sito. Murdoch, a capo del colosso News Corp, da tempo sta puntando il dito contro Google che ruba incassi all'industria delle news. Wall Street Journal e Financial Times di fatto sono già a pagamento, ma per la prima volta anche quotidiani di largo consumo, come il Times, che ha 20 milioni di utenti al mese, saranno consultabili su sottoscrizione. Un rischio che dobbiamo assumerci per mantenere la rete dei nostri corrispondenti e non buttare via gratuitamente il loro giornalismo, ha detto Harding. Anche con la musica, la gente adesso sta cominciando a pagare per i download. Informarsi potrà costare un po', ma sempre meno di non sapere che cosa accade nel mondo. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Torniamo in Italia, tornando sui temi del lavoro, i voucher per i lavoratori occasionali arrivano in tabaccheria. Sentiamo. Non più soltanto sigarette e Super Enalotto in tabaccheria, in futuro si potranno acquistare anche i voucher per i lavoratori occasionali. La novità è contenuta in un'intesa tra la Federazione Italiana Tabaccai e l'INPS che sarà firmata oggi. Si partirà con una sperimentazione in 5-6 regioni per poi estendere il servizio a tutto il territorio nazionale. L'intento è quello di rendere ancora più agevole e semplice l'utilizzo dei voucher che in un anno e mezzo di vita ha superato i 4 milioni di pezzi venduti e ha riguardato 55.000 lavoratori, per lo più al nord. Nato per pagare le persone reclutate per le vendemmie nel 2008 attraverso un buono cartaceo, questo strumento fino ad oggi è stato acquistato dai datori di lavoro negli uffici postali, dove i lavoratori potevano poi recarsi per avere il pagamento, pari a 7,5 euro per buono. Fino ad oggi il 58% dei voucher è stato utilizzato in agricoltura e il 21% nel commercio, ma il governo spera di estendere il loro utilizzo anche ai lavori domestici. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Pochi ma buoni. Sono gli affari conclusi dalle aziende italiane in vista dei mondiali di Sudafrica 2010. Fiore all'occhiello il tetto dello stadio principale, il Soccer City Stadium di Johannesburg, realizzato dalla Cimolai di Pordenone. Sentiamo il presidente Luigi Cimolai al microfono di Dario Ricci. Se quello che si va a offrire è un qualcosa di particolare e specialistico, allora si può penetrare in quel mercato come in tutti gli altri che ci sono al mondo. Penso che ogni tanto, seppur preso dalla commessa, dal lavoro, dal business, avrà anche pensato, oddio, sotto questo tetto potrebbe esserci anche Nelson Mandela durante i mondiali. Sì, potrebbe anche esserci, certo. Perché no? Motivo in più per farlo a regola d'arte. Sì, motivo in più, certamente. E di questo tema ritorneremo a parlare domani alle 13.15 nel corso di A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del Mondiale. E siamo invece al calcio italiano. Nella partitissima di domani Roma-Inter non ci sarà per la quinta volta consecutiva Mario Balotelli. Il tecnico nerazzurro Mourinho ha escluso ancora l'attaccante dalla lista dei convocati. E la Juventus ha perso col Napoli e si allontana dalla Champions League. Una vittoria pesante, quella ottenuta dal Napoli ai danni della Juventus nell'ennesima sfida da tutto esaurito al San Paolo. Eppure la partita si era messa subito in discesa per i bianconeri in vantaggio dopo appena 7 minuti di gioco grazie ad un gol di Chiellini. Il Napoli, accusato il colpo, ha stentato per tutto il primo tempo, la svolta nella ripresa. Hamsik ha subito l'opportunità di pareggiare ma spreca malamente un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Rizzoli per fallo di Zebina su Quagliarella. Lo stesso Hamsik si fa però perdonare poco dopo, realizzando di testa il gol del pari. Il Napoli gioca meglio e preme. Al 27esimo trova la rete del vantaggio con Quagliarella. Nel finale Lavezzi firma il 3-1. Ecco il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Noi dobbiamo fare partita dopo partita. Dico ai tifosi, ragazzi, non credo che, essendo partiti male all'inizio del campionato, io non abbia fatto quello che si sarebbe dovuto fare. L'ho fatto, stiamo recuperando. Per la Juventus una sconfitta figlia di troppi errori e di una prestazione decisamente sottotono. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, la parte tecnica Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.